siamo Napoleone, e partendo dal nulla ho conquistato l'Europa. Mentre ora sono qui, tutto solo, in esilio a Sant'Elena, e sento voci di bambini che mi fanno impazzire. Il vostro amore può far più